Chiediamo il rinnovo del contratto che è scaduto dal 2019 e abbiamo bisogno di stipendi più alti, abbiamo bisogno di condizioni diverse rispetto a quella attuale e quindi vogliamo anche noi entrare a far parte di questo dibattito. Lo vogliamo fare come sindacati di base. Noi siamo qui come ADL Cobas ed SGB, ci sono altri sindacati di base che in tutto il territorio nazionale stanno nelle cooperative, si organizzano e quindi riteniamo che il contratto collettivo sia un argomento da affrontare insieme anche con i sindacati di base. Non è possibile che in un paese come l'Italia ci sia una democrazia sindacale non rispettata. I lavoratori scelgono il loro sindacato ed è giusto essere rappresentati tutti quanti. Nel dettaglio, appunto, chiedete un nuovo contratto. Cosa chiedete in particolare in questo rinnovo che non sembra arrivare? Beh, la piattaforma è abbastanza composta perché appunto noi, essendo lavoratori delle cooperative sociali, siamo entrati proprio nel merito, però abbiamo scelto, insomma, tutti insieme 4 punti, diciamo, che sono rappresentati nei cartelli, che sono l'aumento della paga, perché noi siamo uno dei famosi contratti da paga da fame, diciamo noi, firmati da CGIL e CISL, quindi non pirata. Quindi l'aumento della paga e la riduzione oraria, perché comunque noi abbiamo 38 ore frontali e spesso in servizi abbastanza pesanti. Questo, diciamo, è la base. Dopo di ciò abbiamo un altro punto importante, è la banca ore, di cui a Bologna si sta facendo una grossa lotta in dolce, che di fatto, diciamo, rende flessibile al 100% il lavoratore. Quindi noi chiediamo la cancellazione della banca ore all'interno del contratto. Un altro punto veramente importantissimo, che non esiste quasi in più nessun contratto, è il 100% della maternità, perché il contratto delle cooperative sociali, nonostante siamo quasi tutte donne, paga solo l'80%. Quindi se la cooperativa è integra va bene, se non integra, quindi qui per esempio la Quadrifoglio, che ha 700 lavoratori nei servizi scolastici, paga l'80% della maternità. È veramente, diciamo, una discriminante pesante. L'ultimo punto è la questione dei diritti sindacali, quindi avere i diritti sindacali per tutti i sindacati presenti nelle aziende. Se c'è un'azienda in cui c'è dentro SGB o ADL, devono avere gli stessi diritti degli altri di riconoscimento, di poter contrattare, di poter firmare, eccetera eccetera, specialmente quando sono molto rappresentativi come lo siamo noi, ecco. Come sta andando il dialogo con LegaCoop? Cioè, voi siete qua sotto oggi, appunto, li volete consegnare queste firme, ma c'è stato, diciamo, qualche incontro? Ci sarà qualche incontro in programma? Ma in realtà noi l'abbiamo mandata via PEC, tutta la nostra, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. L'abbiamo mandata da tutti gli indirizzi dei vari sindacati di base che partecipano a questa piattaforma. Nessuno ha ricevuto risposta. Oggi, nonostante era stato preavvisato e richiesto l'incontro, ci dicono che sono impegnati e quindi non siamo sicuri neanche che ci incontreranno. Diciamo che i presupposti non sono proprio di apertura. Per quanto riguarda invece la fondazione della piattaforma, un altro contratto è possibile. Quali sono i suoi punti di forza? Quali possono essere, come dire, le sue prospettive? Ma i punti di forza, innanzitutto, la piattaforma parte dalla condizione dei lavoratori, perché è stata scritta con i lavoratori e dai lavoratori. Quindi questa è la grande novità. Noi non siamo sindacati che rappresentiamo dei lavoratori che non conosciamo. Noi siamo dei lavoratori che ci organizziamo ed auto-organizziamo nei luoghi di lavoro. Quindi la piattaforma parla di condizioni di lavoro che viviamo quotidianamente ed è costruita sulla base dell'esperienza dei lavoratori e delle lavoratrici. In particolare nelle cooperative sociali lavorano soprattutto donne, e sono donne che però vengono sottopagate. Quindi parliamo di differenze retributive, ne parliamo a livello nazionale, ma è perché abbiamo dei contratti che prevedono queste differenze retributive. La maternità all'80%, e quindi noi siamo qui anche per rappresentare, insomma, questo spaccato del settore lavorativo delle cooperative sociali, che è un settore femminile, che vuole diritti, che vuole essere riconosciuto, che vuole rappresentanza reale.